Sono le 8, seconda parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Bentornati sulle nostre frequenze. La tua colazione rock fino alle 9. La tua colazione rock. Con la squadra, eccola qua. Ogni giorno alla mattina ascolta. Squadra composta dall'Ariele, Fricantoni, Spadino, Isaac Rizzi, la nostra redazione e tutti gli amici e le amiche che ci contattano al 335-100-7777. Non ne ho ancora mai accennato, ma secondo voi le Zeppelin col Kazoo, cioè, proseguiranno oppure no? Ovviamente sì, io ci tengo così ad anticipare le cose proposte da Pane, Burro e Rock and Roll. Secondo voi avremo mai il coraggio di suonare Stairway to Heaven col Kazoo? Sì. No, do già io la risposta così. Domani, ecco. Preparatevi. Affezionatevi ad un'altra frequenza radiofonica se non vi piace la rubrica delle Zeppelin col Kazoo, perché domani vi proporremo Stairway to Heaven. Poi ho da salutare, devo fare una strombazzata a Ilaria che quest'oggi mi ha un esame, eccola qua. Abbiamo da segnalare, ringrazio Corrado per quanto riguarda i numeri dell'otto, mi segnala, ragazzi, 72 a Iosa, di 18 neanche l'ombra, teniamo duro fino a sabato. Bravo Corrado, è così che si fa. E l'ultima, questa è con questa domanda che voglio iniziare la seconda ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Anzi, prima vi annuncio il brano che vado a far partire. Ovviamente la prima ora, la seconda ora inizia con il brano segnalato da Mox Cristadoro della redazione di Easy Rider, quest'oggi affidato alla PFM, premiata Forneria Marconi, con un brano, un meraviglioso brano del 1971, La carrozza di Hans. Ma prima di farvelo ascoltare vi lascio con la domanda del radioascoltatore: ma secondo voi, tra tutti i termometri che si vedono in giro per Milano, ce ne sarà uno che dà la temperatura giusta? È perché sono rock, no? PFM, La carrozza di Hans, grazie a Easy Rider. Buongiorno Fiat Gruppo Automobile. Buongiorno, sono Ariel, la chiamo da Milano, Rock FM, una trasmissione radiofonica, si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Sì. Insieme al collega Roberto Fricantoni abbiamo Buongiorno. Questa trasmissione molto seguita. Volevamo informazioni per chiedere una sponsorizzazione. Sì, le passiamo all'ufficio, signore degli sponsor. Grazie mille. Grazie. O ce la danno sto giro la macchina. La danno a Fiorello. Come l'impressione che non ci prendano sul serio. Aiuto. E quando sentono il tuo nome. Aiuto. Sarà schianto, sarà Fricantoni che non depone a nostro favore. Pronto? Buongiorno, siamo Ariel e Fricantoni della trasmissione radiofonica Pane, Burro e Rock and Roll. Buongiorno. Da Milano, Rock FM, buona giornata. Buongiorno a lei. Senta, ci chiedevamo come ci si può muovere per avere una sponsorizzazione da parte della Fiat. Le do la mail del mio responsabile che sì. Segue anche queste cose. Perfetto, perfetto. Se allora, si chiama la mail è mail@fiat.com. Ma senta, che lei sappia, visto, insomma, fino a quando, perché ovviamente, insomma, siamo un po' imbarazzati anche nella richiesta. Secondo lei si può, non so, chiedere una macchina, che magari gli mettiamo il logo sulla fiancata? Sì, certo. Sì. Non so per quanto tempo gliela possono dare, certo, però se la cosa... Anche perché ho visto che ultimamente, non so, c'è il gemellaggio con Fiorello, Baldini, quindi insomma, vi siete buttati un po' sulla radio, volevamo capire... Certo, parte che il mio responsabile valuta la visione, cioè la visione, certo, che visione può avere la macchina sul vostro programma, esatto, però se è una cosa fattibile sicuramente, certo, ve la danno. Magari adesso non una 500 che è proprio il massimo di adesso. Ma forse possiamo chiedere a lei un consiglio. Noi siamo una trasmissione molto seguita dai giovani, qual è una macchina Fiat che si adatta bene come immagine ai giovani? La nuova 500 per esempio? Sicuramente la nuova 500, poi vedo che anche la grande punto è richiesta molto dai giovani. Allora c'è la grande punto, che poi al massimo anche fosse un'auto usata, ma a noi potrebbe andare bene. Ma un'auto usata nuova o vecchia? Quella che c'è, insomma, noi ci accontentiamo, Fricca, non fare sempre quello che vuole tutto. Ma no, vabbè, non però, sei insomma, Fiorello. No, capito? Dai, scusa, metteremo sulle fiancate pane, burro e rock and roll, ed è una sponsorizzazione, esatto, a tutti gli effetti. Comunque, senta, lei scriva a... Va bene? Dice, le Duna sono ancora disponibili? Esistono ancora le Duna? Sì, secondo me da qualche parte dell'universo sicuramente c'è qualche Duna, ma la Duna era vecchia credo di 10 anni fa. Beh, però una macchina stupenda, un'automobile secondo me eccezionale. La Duna? Sì, a me piaceva proprio perché non piace a nessuno, noi vogliamo essere originali, a noi piace la Duna. Sarebbe molto rock, no, sarebbe rock. Sarebbe molto rock avere una Duna. Grazie, ho capito. Grazie mille per il contatto, buona giornata. Prego, signora, è stata gentilissima. Grazie a lei, buongiorno. Grazie a lei, molto gentile. And it's been the ruin precedente gli Animals on the House of the Rising Sun. Abbiamo un radioascoltatore che scoppia a piangere tutte le volte che la sente. No, me lo vedo nel suo abitacolo piangere come un bambino. Un saluto velocissimo agli amici Pooh che stanno riproponendo questa canzone nella versione italiana. Sono un po' in tutte le radio in questi giorni. Solo una piccola nota, non c'è bisogno di farla 8 tonalità sopra la canzone, 12 tonalità sopra, si può tenere anche tonalità originale. È vero che se uno ha la voce che va bella su, ci tiene a farla sentire, ma è una cosa che a me è un filo mio. Quelle robe lì mi lasciano sempre un po'. Comunque, grandi Pooh, mitici Pooh. Avrei un'altra, una bruttissima notizia da darvi. Legata alla scomparsa di un personaggio che in qualche modo è entrato negli almanacchi di diritto, negli almanacchi del rock. È morto ieri in Olanda a Vlodrop il Maharishi Mahesh Yogi, a 91 anni. Lo ricorderete come il guru che introdusse i Beatles alla meditazione. Il quotidiano olandese Die Volkskrant, sul suo sito online, dà notizia appunto della morte del Maharishi. Aveva fondato il movimento per la meditazione trascendentale, inizialmente considerata con scetticismo come una sorta di misticismo hippie. La meditazione trascendentale poi si è guadagnata una certa considerazione anche negli ambienti scientifici. Aveva introdotto la sua tecnica negli Stati Uniti nel 59, ma il movimento acquisì notorietà internazionale dopo la visita che i Beatles fecero al suo ashram in India nel 1968. La tecnica di questa meditazione trascendentale, come la chiama lui, si basa principalmente sulla ripetizione di alcuni minuti, due volte al giorno, di un mantra, porta a uno stato di consapevolezza senza oggetto o senza pensieri, così scrive l'articolo. Ricerche sull'effettiva efficacia della meditazione trascendentale sono state condotte fin dal 1970 e pubblicate su varie riviste specialistiche di psicologia e neurologia. Durante gli anni 60 e 70, Yogi è un orso, ebbe tra i suoi adepti numerose celebrità, tra cui i Beatles, i Beach Boys e Clint Eastwood. Sì, un personaggio sicuramente strano, particolare, però dispiace sapere appunto che è morto ieri, beh, all'età di 91 anni, quindi se l'è abbastanza goduta, il Maharishi. Tra l'altro fa parte, ha segnato quella che viene ricordata dagli almanacchi come il periodo indiano, come la svolta indiana dei Beatles, che è forse, a dire il vero, mi azzardo a fare un'ipotesi, una delle prime grandi truffe mediatiche del rock and roll, nel senso che i Beatles poi in India fecero un viaggetto di una settimana, insomma, niente di più, con l'unico problema che forse per la prima volta nella storia della comunicazione questi vanno a fare un viaggio di una settimana e là ci trovano tutte le televisioni e tutte le radio del mondo pronti ad accoglierli, quindi la cosa viene un po' travisata. In realtà questo gran periodo indiano dei Beatles si realizzò in ben poco, se non forse nella grande passione di Harrison per il sitar. Comunque ci tenevamo a salutare il Maharishi e soprattutto la sua meditazione trascendentale. E sapete come lo salutiamo? Beh, alla maniera di pane, burro e rock and roll. Abbiamo citato i Beatles, perché non gustarceli così alle 8:18? Eh? Guardate quanto vi vogliamo bene. Words are falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Universe per salutare il Maraishi che se n'è andato ieri. Allora, vedo che dai messaggi che il tentativo di sponsorizzazione richiesto da Pane Burro Rock and Roll alla Fiat ha carpito la vostra attenzione. Soprattutto siete rimasti scioccati da come la signorina della Fiat non fosse particolarmente contenta di sentir parlare della Duna. Avete ragione, è una cosa da nicchia però, eh? Bisognerebbe convincere la Fiat di rivalutare la Duna, perché trattarla così male? Comunque fa piacere vedere che apprezzate le nostre rubriche, mentre vengo tanato da un radioascoltatore anonimo che mi scrive: caro Ariele, si è capito, ti piacciono i Beatles? Non solo, mi piacciono anche gli Who, se devo essere sincero. Quindi quasi quasi mi sparo un U, viva! Tra pochissimi istanti, la testa attitudinale di quest'oggi. Siete pronti? Siete preparati? Meriterete la vostra patente davvero rocker oppure no? Scopritelo qui su Rock FM con noi di Pane Burro Rock and Roll. Che pezzo è questo, ragazzi? Mi fa spezzare, eh. Quella che si chiama un'introduzione epica. Saluti a Lillo, a Luca, ad Alba e Dami, a Stefano Verda Cinisello, a Laura, a BC67, Piccola Kirk, Mirko da Firenze, CH3 da Firenze, Luca, Vitellozzo da Firenze, Gian, ehi, Lapo, Serena, Daniele, quanti siete anche oggi? Alessandro, buona giornata a tutti! Snoccioliamo un po' di storia del rock and roll, perché no? Ma perché? Perché no, certo. Stavo perché, perché sì. E perché sì, perché no, è indispensabile. Sì. Ma perché? No. Ma io ho la risposta, perché è indispensabile avere le basi. Approfondiamo la storia del rock. Il minimo indispensabile. Avrei il test attitudinale da proporle e oggi approfondirei un album molto bello della carriera di David Bowie. Era il 1972 quando veniva pubblicato The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ho amato molto quel disco. Molto bello. Ricordiamo che è un piccolo concept album, quindi viene raccontata una storia, un mondo sull'orlo dell'apocalisse in cui l'ultimo eroe è un ragazzo divenuto rockstar grazie ad un aiuto extraterrestre, un po' come è accaduto anche a lei nella vita reale. I temi fantascientifici erano, ricordiamo, di gran moda all'epoca. Ziggy è quindi l'emblema della rockstar, un cantante rock di plastica, come lo definiva Bowie, che con la sua ascesa e la sua caduta ripercorre idealmente la parabola della celebrità dietro la quale si nascondono l'insicurezza e la fragilità dell'artista, un po' come lei, Freak. Beh, insicuro e fragile. Non volevo dirlo. Ricordiamo che la figura di questa rockstar, appunto denominata Ziggy Stardust, era ispirata alla figura di un rocker. A chi si ispirò David Bowie per inventare, per scrivere Ziggy Stardust? Tre possibili ipotesi. Ipotesi A: si ispirò ad Elvis Presley. Oppure ipotesi B: a se stesso, a David Bowie medesimo. Oppure ipotesi C: a John Lennon. Chi era Ziggy Stardust? Chi era Ziggy Polvere di Stelle? La risposta, come al solito, ve la diamo dopo la soluzione esatta. Tra poco.